Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Eccoci qua di nuovo con questo inizio un po' più scoppiettante del solito, scusateci qualche problemino di regia, ma buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM, io sono Rachele Copparoni ed è ufficialmente... è vero, questa volta è ufficialmente iniziata la seconda puntata di Fujicomics. In questo grigio ormai mercoledì piovoso, ore 10:35, anche questa seconda puntata di Fujicomics sarà una sorta di contenitore pieno di eventi, sia bolognesi che non, nuove uscite in libreria e in fumetteria, varie interviste, tante chiacchiere e ovviamente non poteva mancare la musica. Visto che in questa puntata si parlerà un po' di gravidanza, di letture per bambini e per bambine, di laboratori di disegno sempre per i più piccoli, è come se fossi tornata un po' bambina anche io, anzi forse un po' anche adolescente. Ed è proprio per questo motivo che la scelta musicale sarà incentrata nella musica anni 90, la musica che è nata insieme a me, che è cresciuta insieme a me e che appunto mi ascoltavo quando ero piccola barra adolescente. E sarà questo più o meno il filo conduttore della colonna sonora di questa seconda puntata di Fujicomics, quindi direi subito di andare ad ascoltarci la prima canzone di un gruppo musicale alternative rock che è stato fondato ovviamente all'inizio degli anni 90 e che è stato attivo fino al 1998 ed ho scoperto proprio recentemente che si è riunito nel 2019, quindi ora. Loro sono le Bikini Kill e questa è Rebel Girl. Yeah. Ma entriamo un po' in merito al menù, da cosa sarà composto questa seconda puntata di Fuji Comics. Ovviamente sarà presente il consiglio della settimana, quindi se non avete già sentito la scorsa puntata, in questa prima mezz'ora ho chiesto ad un artista, in questo caso una donna, Eliana Albertini, che abbiamo sentito appunto nella scorsa puntata nell'intervista, ho chiesto a lei un consiglio di lettura, un libro, un fumetto da consigliarci, non per forza uscito recentemente. Infatti Eliana ci ha consigliato un fumetto edito da Becco Giallo Editore che è nella sua lista di fumetti da leggere almeno una volta, come dice lei, anche due nella vita. Poi proseguiremo con le nostre interviste. Ci sarà Sara Menetti, con cui parleremo di centimetri del corpo della donna, gravidanza e cambiamenti e tutti i suoi progetti vecchi e nuovi. Successivamente sentirete una voce familiare qui nelle frequenze di Radio Città Fujiko, perché ho intervistato Valentina, uno dei componenti del collettivo radiofonico 42 La Risposta. Infatti con lei ho parlato dell'evento che ci sarà questo sabato 5 ottobre al VAG 61 in via Paolo Fabbri 110, e ci ha un po' spiegato quale sarà le varie componenti della serata del 5 ottobre. Proseguendo si parlerà di tante chiacchiere, si parlerà di Internazionale Kids, di nuove uscite da Zero Calcare, che non è proprio una nuova uscita fisica in carta stampata, ma non vi anticipo troppo. Si parlerà anche del Romix, quindi la fiera che si terrà a Roma in questi giorni, di presentazione di tantissime opere. E infine ovviamente l'ultima rubrica, che è quelli degli eventi che ci saranno a Bologna da qui a mercoledì prossimo, e non solo a Bologna, perché ci sposteremo anche un po' a Ferrara, ad esempio, sempre per l'internazionale che appunto il prossimo fine settimana sarà presente a Ferrara. Ma intanto proseguiamo con la musica. Devo dire che ho rubato questa musica a Chiara, una delle redattrici della radio, che non so se è di là e mi sta ascoltando. Loro sono i Perota Cingo, sono dei ragazzi argentini che hanno spopolato decisamente in rete con i loro numeri. Li ho conosciuti appunto tramite Chiara, perché ha messo questa canzone qualche settimana fa, quindi forse l'avete già sentita, ma si sa che le cose belle vanno ascoltate due volte, quindi ci ascoltiamo i Perota Cingo con Besame Mucho. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, veces última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, veces última vez. Bésame. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Veces, última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero y quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Ay, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, vez, vez, última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. te comparo con las flores, es cual si fuera primavera. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Mi Carmelina, ay Dios, yo no quiero que me digas adiós. Adiós, mi Carmelina, y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Tanto como te besaba yo. Yo no quiero que me beses más. Tanto como te abrazaba yo. Yo no quiero que me abraces más. Ay, tanto como te quería yo. Yo no quiero que me quieras más. Adiós, mi Carmelina, y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Adiós, mi Carmelina, y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Ed è arrivata l'ora del consiglio di lettura della settimana. Come vi avevo anticipato, appunto, questo consiglio è stato gentilmente offerto da Liana Albertini. Se vi siete persi l'intervista che le ho fatto la scorsa puntata, potete andare sul sito della radio, che è www.radiocittafugico.it, e ritrovarlo tra i vari articoli nella sezione, appunto, cultura ed eventi. Eliana, ve la ripresento rapidamente, è un'artista del Polese. Ha frequentato però l'Accademia di Belle Arti a Bologna, è una delle fondatrici del collettivo Blanca. Nel 2017 è uscito il suo primo libro a fumetti, che si chiama Luigi Meneghello, apprendista italiano, e nel 2019 ha vinto il premio Nuove Strade al Festival Comic Con di Napoli. Quest'anno è uscito il 19 settembre il suo secondo fumetto, sempre edito da Becco Giallo, all'interno della collana Rami, che è la collana dedicata ai racconti di fiction, e il fumetto si chiama Malibu. Ma voglio lasciare la parola direttamente a lei, appunto, per il nostro consiglio della settimana. Il consiglio della settimana. Ti chiedo se hai un consiglio da darci per una lettura, qualcosa di recente, qualche nuova uscita in ambito, appunto, sempre di fumetto, graphic novel, che ti è piaciuta particolarmente. Sì, allora io mi sento di consigliare un libro che è uscito in realtà l'anno scorso, però secondo me resterà nella storia del fumetto. Certo. E è uscito sempre per Becco Giallo, adesso non voglio tirare acqua al mio mulino, però merita, è uscito sempre per Becco Giallo, e la collana, appunto, di finzione Rami, curata da Alice Milani, ed è Il futuro è un morbo oscuro, dottor Zurich, di Lise e Talami. Okay. Che è una coppia consolidata del fumetto italiano, e che però ha fatto questo libro dopo moltissimi anni di lavorazione, e si vede, perché è un libro curato, e nonostante sia super caotico, è un caos comprensibile, ed è una cosa che ancora adesso non riesco a spiegarmi quando ci penso, ed è per questo che secondo me merita di essere letto. Bisogna mettere una spunta e averlo letto una volta, sì, nella vita, insomma. Decisamente. Bene. Una o più volte. Una o più volte. E qual è, sì, la trama generale del libro, così per incuriosire ancora un pochino di più i nostri ascoltatori? Allora, la trama si svolge nella steppa russa. Ah, che wow. Parla di malattie che vengono curate da questo dottor Zurich, che ha, diciamo, durante la storia dei problemi con le autorità, e insomma si creano varie avventure che non seguono propriamente un filo temporale regolare, però sono vari livelli, diciamo, di avvenimenti che si intrecciano, e per il fatto che è una cosa che io non sarei mai riuscita a fare, lo consiglio, perché è veramente, cioè, poi è molto divertente, nonostante questi racconti vengano trattati, appunto, con tutta la solennità che può avere un romanzo russo. Certo. Bene, grazie mille veramente per la disponibilità e per il consiglio di lettura che ci hai dato, e niente, in bocca al lupo per tutto, e ricordiamo grazie. Malibu, Becco Giallo Editori, in uscita in tutte le librerie. Grazie ancora, Eliana. Grazie. Ciao. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and puts it bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Ammetto che dopo questa siete tornati tutti un po' adolescenti come me, un po' bambini. Volevo parlare di un argomento di cui fino ad ora non ho detto niente, ma specifico sempre se si tratta, quando parlo di un libro, se si tratta di una graphic novel o di un fumetto, perché sì, anche se lieve, ma c'è una differenza tra queste due tipologie di libri. La questione non è di facile risoluzione, ma se si va a guardare l'etimologia della parola, diciamo che una soluzione più o meno si trova. La graphic novel in italiano letteralmente è stata tradotta come romanzo grafico, romanzo illustrato, anche se appunto spesso preferiamo utilizzare l'espressione in inglese, appunto graphic novel. Quest'ultima nasce negli Stati Uniti nei primi anni 70 e le sue caratteristiche fondamentali sono che è un romanzo illustrato ed autoconclusivo, quindi ha un inizio ed una fine, un inizio, uno svolgersi della storia ovviamente, ed una fine, non è a tappe, non è a varie uscite differenti, ed è inizialmente caratterizzato da delle illustrazioni un po' più minimali, meno curate e spesso rivolte soprattutto ad un pubblico adulto. Con il passare del tempo queste illustrazioni si sono fatte sempre sempre più raffinate, sempre più curate, fino ad arrivare appunto nelle modalità con cui li vediamo oggi. La caratteristica fondamentale è appunto il fatto che sono delle illustrazioni, che è una storia autoconclusiva, e la caratteristica fondamentale è la narratività che caratterizza la graphic novel. Possiamo andare anche a citare Scott McCloud, che è un fumettista statunitense che ha scritto proprio un libro intitolato, un saggio intitolato Capire il fumetto. E la differenza che fa lui è che il fumetto può essere utilizzato anche per scopi non narrativi, come ad esempio, non so, una ricetta di cucina, un libretto di istruzioni, insomma, per varie modalità, e soprattutto può uscire in serie a varie tappe, mentre, come vi dicevo prima, la graphic novel deve essere autoconclusiva e principalmente deve avere delle illustrazioni al suo interno più o meno complesse. Dopo avervi spiegato questo, così d'ora in poi quando si parlerà di fumetto o si parlerà di graphic novel sapremo tutti più o meno qual è la differenza. Torniamo con della musica, ci ascoltiamo The Donnas, Are You Gonna Move It For Me, e poi un po' di pubblicità. Talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Abbiamo appena ascoltato Lene Marlin con Sitting Down Here, ovviamente cantante che, indovinate un po' in che anni, ha debuttato negli anni 90, precisamente nel 98. È un artista norvegese, ma in realtà ha avuto molto più successo qui da noi piuttosto che nel suo paese di origine. Allora, non vi ho ancora ricordato tutti i vari contatti con cui potete arrivare fino a noi dal nostro sito www.radiocittafugico.it, dove c'è anche una piattaforma in cui ci potete ascoltare in streaming se non siete più a Bologna, ovviamente i nostri canali social, quindi Facebook e Twitter, oppure ci potete scrivere al 333-180-9494 tramite SMS, WhatsApp o Telegram. Detto ciò e ricordato tutti i vari contatti, possiamo entrare nel vivo della prima intervista. Sto parlando dell'intervista che ho fatto con Sara Menetti. Sara vive e lavora da tanti anni come illustratrice freelance proprio qui a Bologna, collabora da anni con il collettivo di autori di fumetti Mamma Aiuto, che potete trovare anche qui su Facebook cercandolo appunto come Mamma Aiuto, oppure sul sito mammaaiuto.it. Con questo collettivo di autori ha pubblicato Fototessere e anche Tokyo, un viaggio illustrato, che potete andare a vedere anche sul sito direttamente di Sara Menetti, e ha collaborato anche con la rivista online Aspirina, con la quale pubblica strisce intitolate Cose stupide che succedono a chi cerca lavoro, un titolo veramente geniale. Inoltre Sara aderisce anche al movimento degli Urban Sketchers, così si fanno chiamare, sono coloro che girano per le città e disegnano scorci di città. Io ho adorato questa cosa perché faccio più o meno la stessa cosa, ma non sapendo disegnare faccio delle foto, mi fermo in qualsiasi piccolo scorcetto di città a fotografare, perché secondo me lì si trova la vera essenza di un paese, di una città. Ci andiamo a ascoltare ancora un po' di musica, lei è Natalie Imbruglia con Torn, e qua forse finiamo anche un po' negli anni 2000. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. Il video di questa canzone e la bellezza di Natalie Imbruglia sono impresse nella mia mente come poche cose nella vita, devo dire la verità, non so perché, fatemi sapere se anche per voi è la stessa cosa, se vi ricordate bene questa canzone, questo video che era veramente famosissimo e ha spopolato tantissimo anche da noi. Ma veniamo a Sara Menetti. Sara Menetti l'ho conosciuta tramite un'antologia di fumetto che si chiama Post Pink e volevo andarvi un pochino a spiegare meglio che cos'è Post Pink. È appunto un'antologia di fumetto femminista curata da Elisabetta Sedda e con la prefazione di Michela Murgia. Raccoglie al suo interno 9 versioni, diciamo così, 9 versioni di donne, ognuna illustrata da una diversa fumettista, e tra queste ovviamente c'è anche Sara. È proprio il primo fumetto di tutta l'antologia. Intanto passano aereo, salutiamolo come sempre, buon viaggio a tutti. Vi cito anche qualche altra artista che è contenuta all'interno di Post Pink. C'è da Cristina Portolano che ci racconta la storia di Hildegarda di Bingen e come dire le sue lodi all'orgasmo, a questo ritrovato piacere. C'è Fumetti Brutti che parla di un argomento abbastanza importante che poi è stato proseguito nel fumetto che è uscito recentemente, P, la mia adolescenza trans, e parla appunto del raggiungimento dell'identità femminile di una donna che in realtà è nata uomo. Troviamo anche Margherita Morotti che parla di uguaglianza di genere e Alice Milani che si addentra in un tema che è veramente pungente, infatti parla della violenza, dello stupro, e cerca di analizzare la frase che purtroppo tuttora spesso sentiamo: se l'è cercata. Era vestita con una gonna troppo corta, aveva una maglietta troppo scollata, quindi se l'è cercata. Vi consiglio vivamente la lettura di Post Pink. E proprio per introdurci ancora meglio nell'intervista che ho fatto con Sara Menetti, volevo leggervi l'introduzione che viene fatta a Centimetri, che appunto il fumetto di Sara. Quindi vi leggo direttamente da Post Pink. Coperto perché nessuno possa sondarne le forme, o seminudo perché riescano a scorgerle tutte. Quello femminile è un corpo esposto al giudizio, piegato ai canoni estetici, oggettualizzato. Per chi guarda, quel corpo viene sempre prima della donna e dei suoi sogni, capacità, aspirazioni, debolezze e paure. È un involucro esterno che quasi determina l'individuo in tutta la sua interezza. Non di rado, agli occhi della proprietaria, lo stesso corpo è un rivestimento ingombrante, esterno. In casi estremi, addirittura destabile, perché osservandone le fattezze stenta a riconoscerne i contorni del modello unico e standardizzato che le viene imposto. E anche quando invece vi trova le conferme sperate, sarà sempre solo per un tempo destinato a finire, perché il corpo della donna è avvezzo al cambiamento molto più di quanto lo sia quello maschile. Nel corso della vita l'evoluzione continua, può avvenire in modo graduale o drastico, per ragioni naturali o culturali, e di volta in volta determina la funzione sociale, prima ancora che biologica, dell'individuo femminile. Il cambiamento più grande è forse quello che avviene durante la gravidanza, in cui alla donna il corpo viene quasi espropriato, una condizione non sempre facile da accettare, a prescindere dal desiderio di maternità. In Centimetri Sara Menetti ci racconta queste e altre evoluzioni attraverso gli occhi di donne diverse, che il cambiamento lo desiderano, se lo impongono, lo subiscono, l'accettano e lo vivono. Sentiamo direttamente le parole di Sara Menetti. A tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, siamo qua con Sara Menetti, benvenuta sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Grazie, ciao a tutti. Allora, io Sara ti ho conosciuto per Post Pink, l'antologia di fumetto femminista che è stata curata da Elisabetta Sedde con la prefazione di Michela Murgia. Sì. Come è nata questa collaborazione? Volevo partire proprio subito da questa cosa. Sì, allora io conoscevo già Elisabetta Sedde, lei conosceva già il mio lavoro, quindi nel momento in cui ha deciso di fare questa raccolta, questa antologia, mi ha contattata e mi ha proposto un argomento, diciamo, perché non so se hai visto che il libro è diviso in capitoli, insomma. Sì, esatto, siete in 9 in totale, giusto? Esatto, e ogni capitolo tratta di una parte del corpo della donna, e a me era stato assegnato il tema della maternità, diciamo, quindi non proprio del corpo ma della donna in generale, un tema che poi ho sviluppato parlando del rapporto con il cambiamento del corpo. Infatti il tuo racconto si chiama Centimetri. Esatto. E va proprio a parlare di quanto il corpo di una donna sia spesso definito tramite questi centimetri, attraverso sì. I suoi centimetri, che siano quelli di una gonna, un vestito o quelli di una pancia che cresce. Esatto, sì. Perché ha voluto parlare della maternità all'interno di un discorso più ampio alla fine, perché comunque è solo una strada che può prendere una donna nella sua vita, una delle strade, insomma. Quindi ho preferito, diciamo, allontanare un po' il punto di vista e analizzare come cambia il corpo di una donna nelle varie fasi della sua vita, da quando nasce a, insomma, quando appunto diventa mamma, e come viene percepito dalla società questo cambiamento. Certo, a proposito di donna e mamma, com'è essere donna e mamma nel mondo dei fumetti, che da sempre è un mondo abbastanza maschile? Cioè, io almeno l'ho preso in maniera creativa, diciamo, perché in quanto fumettista, in quanto narratrice, mi viene abbastanza spontaneo poi raccontare un po' quello che succede tramite fumetto, tramite piccole vignette, fumetti o anche racconti più lunghi. Come appunto anche in questo caso ho voluto trasmettere la mia esperienza, perché l'argomento del corpo che cambia è stato uno degli aspetti che più mi ha destabilizzato durante la gravidanza, quindi ho voluto parlarne. Sì, il mondo dei fumetti è da sempre stato considerato abbastanza maschile, adesso però c'è un bel ricambio, c'è disponibilità di ascolto, e quindi insomma dei racconti anche di donne, anche se si tratta di racconti che possono leggere tutti, chiaramente. Certo. Però c'è sempre stato un pochino di come poi in letteratura, di diciamo chiusura. Sì, però infatti adesso l'ambiente è un po' cambiato, poi io sono freelance, quindi riesco abbastanza a gestirmi il lavoro e la famiglia. Certo, decidi tu le tue collaborazioni, insomma, sì, i tuoi sì momenti. A proposito di collaborazioni, sono anni ormai che lavori con il collettivo Mamma Aiuto. Che cos'è, sì, questo collettivo? Allora, siamo un gruppo di fumettisti e facciamo autoproduzioni. Non siamo una casa editrice, siamo proprio solo un collettivo di autori e insieme abbiamo creato questa associazione per avere la possibilità di essere in tanti e avere tante storie da raccontare, raccoglierle tutte su un sito online, si chiama mammaaiuto.it, e appunto offre una grande quantità di storie da leggere. Come filosofia, diciamo, poi noi mettiamo tutto online e quindi rimane tutto in lettura gratuita. Ah, perfetto. E tra di noi ci sono parecchi autori che pubblicano anche per case editrici, quindi diciamo un discorso, insomma, non è che non troviamo da pubblicare e quindi facciamo autoproduzione, è proprio una cosa che va in parallelo, è un progetto nostro. Certo, è proprio una volontà di essere indipendenti e autoprodursi. Sì, sì, esatto. E molte delle storie poi sono state, delle storie anche presenti sul sito, sono state ristampate da altre case editrici, sia italiane che straniere. Quindi come progetto funziona e ci troviamo molto, insomma, siamo molto contenti sempre quando ci vediamo, quando facciamo i festival, e siamo anche molto amici. Bene, è sempre importante. Sì, siamo un bel gruppo e appunto a volte le storie che pubblichiamo online vengono anche stampate, sempre come autoproduzione. Tra l'altro è proprio il caso del tuo Pregnancy Comic Journal, che da poco sì. è diventato, o diventerà, perché ancora forse sì. solo in preordine, se è ho capito bene. Sì. Esatto, quindi diventerà un fumetto su carta di 320 pagine che appunto si può ordinare sul sito mammaaiuto.it. Esatto, si può anche già leggere perché sto pubblicando ancora le, diciamo, le puntate, che poi sono capitoli. Insomma, io pubblico tutto e poi alla fine, cioè in realtà no, a metà, diciamo, racconto viene stampato, poi comunque la pubblicazione online continuerà e quindi arriverà proprio alla fine, si potrà leggere tutto online. Tra l'altro in questo preordine c'è anche la possibilità di avere una dedica, una copia numerata e firmata, giusto? Esatto, e anche la cartolina. Anche una cartolina. Sì, in stampa limitata, e numerata, firmata e dedica sul volume. Perfetto, molto carina questa idea. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. cadere. Com'è avvenuta la stesura di questo Pregnancy Comic Journal? Perché è stata a tappe, diciamo. Sì, io l'ho scritto proprio mentre ero incinta. Settimana per settimana ogni tanto trovavo uno spunto da mettere su carta, perché è proprio partito come un diario. È un diario della gravidanza e io ho avuto bisogno di scrivere tutto quello che stava succedendo. Poi pian piano ho visto il modo di scrivere sui taccuini era già tramite fumetto, perché a quanto pare non riesco a fare altrimenti. Pian piano ho visto che stava venendo fuori davvero un fumetto, quindi ho detto ma adesso magari lo sistemo un pochino, perché è un po' da correggere, perché taccuini sono proprio scritti così di getto. Li ho un po' sistemati e adesso li sto finendo di ridisegnare per fare le ultime pagine di questo volume. Però sì, è proprio un racconto che è andato in parallelo con la mia gravidanza. Bene, molto, molto interessante. So già a chi regalarlo, ecco. Grazie. E sei stata a Treviso, mi hai detto, quando ci siamo sentiti per telefono l'altro giorno, ma prossimamente dove ti vedremo? Il prossimo appuntamento è, diciamo, la fiera più grande, che è Lucca Comics, a fine ottobre, inizio novembre. Non Beh, immancabile, sì. Esatto. E saremo presenti con Mamma Aiuto, appunto, nella self-area, che è appunto l'area, il padiglione dedicato alle autoproduzioni. Saremo con tutte le principali realtà di autoproduzione italiana e quindi ci sono veramente un sacco di fumetti da guardare, leggere, sfogliare. È un ambiente molto bello che, insomma, a noi piace sempre essere presenti e trovare gli amici e colleghi, molto bello, sono 5 giorni di fumetto pieno. Spero di poterci venire anche io, infatti. Perché ma ancora, magari, sarebbe bellissimo. Ancora non sono mai riuscita in tutti questi anni ad andare a Lucca Comics, che è una tappa immancabile, direi. Coltoreste dal fiato corto, le bambole di porcellana adagiate sul letto tra pizzi e merletti. Provava di pessimo gusto le smanie ed onnipotenze, quei cani grotteschi in ceramica esposti nell'atrio, l'indiscrezione sprolò qui gratuiti. Margherite bianche. Dai, Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Ed eccoci qua, siamo tornati sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, sono le 11.38, è passata questa prima ora della seconda puntata di Fuji Comics. Allora, vi ricordo ancora una volta le piattaforme social Facebook e Twitter, oppure il numero di telefono 333-1809-494, con cui ci potete contattare tramite SMS, tramite WhatsApp o tramite Telegram. Andiamo anche un po' a vedere quello che ci siamo ascoltati fino ad ora durante l'intervista Diana Ross insieme ai Supremes con You Keep Me Hanging On, poi siamo passati a Lana Del Rey con Doing Time e infine, giusto accennato un pochino, Matilde De Avegatti di Carmen Consoli. E siamo rientrati dopo la pubblicità, finalmente tornando nel tema adolescenza, nel tema anni 90 con gli Offsprings. Questa artista invece che ho messo ora nella playlist ero convinta al 100% che fosse nata negli anni 90, invece sono andata a guardare ormai troppo tardi e ho scoperto che è nata nel 2001 e sono rimasta totalmente scioccata. Quindi non è un'artista che ascoltavo certamente da piccola, non era nemmeno nata, però pensavo che almeno avesse più o meno la mia età, invece niente. Sto parlando di Billie Eilish e questo è Bad Guy. My Invisalign has... I have taken out my Invisalign. I have taken out my Invisalign, and this is the album. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. See what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. come vi avevo anticipato all'inizio, quando siamo andati un po' a sbirciare all'interno del menu della puntata di oggi di Fuji Comics, vi avevo già parlato che sentirete una voce nota, già nota sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Infatti ho intervistato Valentina del collettivo radiofonico 42 La Risposta, che organizza questo evento sabato 5 ottobre, Disegnare lo spazio Geographic Novel Day, al VAG 61 in via Paolo Fabbri 110. L'evento inizia alle ore 18. Si parlerà ovviamente di graphic novel e nello specifico del rapporto, del loro rapporto privilegiato con lo spazio, che sia quello urbano, quello fisico, oppure quello immaginario, quello creativo, ecco. Quindi si collegherà le graphic novel con lo spazio sia urbano che immaginario. Appunto, il collettivo radiofonico 42 La Risposta organizza l'evento e sentiamo le parole di Valentina, che ci va a parlare di come sarà composto, che cosa anche forse si mangerà al VAG 61 questo sabato. Buongiorno Valentina, non ti dico ben arrivata sulle frequenze di Radio Città Fujiko, perché sei sicuramente di casa qua. Grazie mille, un saluto a tutti e a tutte di Radio Città Fujiko. Sì, sono di casa, volentieri, mi fa piacere insomma fare questa chiacchierata con te. Bene, siamo qua per parlare dell'evento che ci sarà sabato 5 ottobre, quindi questo sabato al VAG 61. L'evento si chiama Disegnare lo spazio Geographic Novel Day. Di che cosa si tratta? Beh, con il collettivo 42 La Risposta, già lo scorso anno, avevamo chiesto al VAG uno spazio per poter parlare di fumetti, graphic novel, però con un taglio particolare, le biografie, le vite raccontate. Questa volta ci piacerebbe interrogarci, quindi porre delle domande sugli spazi, come se lo spazio fosse un terzo o un quarto personaggio all'interno della narrazione disegnata. E quindi sì, spazi reali, però anche spazi immaginari, spazi desiderati. Ecco, queste saranno le domande che porremo ai nostri ospiti. Chi saranno gli ospiti di questa serata? Beh, gli ospiti saranno davvero diversi. Noi pensavamo a due momenti di riflessione, quindi il primo momento dalle 18:30 in poi, con Vincenzo Filosa, che ci racconterà soprattutto di Figlio Unico, adito da Canicola, e poi due autori della casa editrice Becco Giallo. Abbiamo Francesco Moro per l'antologia Quartieri e poi Claudio Calia, autore sia di Kurdistan, e ora è stato appena ristampato Dossier Tav. Il taglio di questo primo incontro sarà soprattutto sugli spazi della periferia, gli spazi che in un certo senso sono violati, che cambiano identità, e ci interessa proprio pensare come il disegno possa ridare valore a questi spazi che diciamo sono stati deturpati da anche questioni politiche. Mentre nella seconda parte è più diciamo un viaggio sentimentale, una geografia più umana. Avremo Flavia Biondi con La Giusta Mesura e Rita Petruccioli con Ti Chiamo Domani, editi per Bao Publishing, e Bacillieri, che ha appena vinto il premio Boscarato, che ci parlerà di Tramezzino, libro edito da Canicola. Ci sarà anche un laboratorio per bambini e bambine? Assolutamente sì, anzi Marta Baroni probabilmente salirà sul palco quando avrà concluso. Marta è un'autrice diciamo molto conosciuta, ha pubblicato sì due testi con Bao Publishing, ma al di là diciamo del suo lavoro come disegnatrice, è conosciuta anche e soprattutto per le sue illustrazioni per libri editi da Mondadori, Battello a Vapore, Salani, se non ricordo male. Quindi è molto diciamo attenta alle tematiche dei preadolescenti, quindi ci sarà questo laboratorio sulla costruzione di una storia, e l'orario è dalle 16:30. Esatto, vedo qua che bisogna prenotare, per avere informazioni e prenotazioni c'è un numero di telefono, magari lo dico un attimo al volo, così se qualcuno è interessato può fare la prenotazione, e il numero è 333-9870-597. Ci sarà anche invece una mostra con delle tavole di autrici e autori ospiti della serata. Stiamo riproponendo diciamo un po' il format dello scorso anno. Lo scorso anno avevamo in pratica creato dei pannelli e esposto delle tavole degli autori presenti quella sera, e quest'anno appunto ci piacerebbe un viaggio di questo tipo, sempre attraverso degli spazi disegnati, aggiungendo però oltre agli autori presenti Il 5 anche tavole di Pirsi Bertolini, un'autrice bolognese che è molto giovane, che ha già collaborato anche per il Chip Festival, che in realtà, nonostante la giovanissima età, è molto conosciuta nel territorio. Le sue tavole sono bellissime e quindi pensavamo che meritasse questo spazio. Per concludere la giornata ci sarà anche una cena sociale alle 19.30. Sai già il menù? Ci puoi anticipare qualcosa? Così partiamo. Sono sicura che non deluderà nessuno, nessuna. No, all'interno di 42 ci dividiamo un po' i compiti e quindi c'è già il gruppo cucina che assolutamente non vuole pensare a qualcosa di facile ma a qualcosa di buono. E quindi non saprei, potrei dirti qualcosa che ho visto sbirciato un po' sui fogli, ma non è nulla di certo. Va bene, allora ci lasciamo, esatto, ma ci lasciamo il dubbio fino alla fine su cosa ci sarà da mangiare e aspetteremo di assaggiare quello che ci preparerete. Perfetto, quindi ricordiamo ancora una volta, sabato 5 ottobre al VAC 61 che si trova in via Paolo Fabbri 110, disegnare lo spazio Geographic Novel Day. Grazie mille Valentina e ci vediamo grazie sabato. Grazie a te, grazie per questo spazio, un saluto a tutti e a tutte. Grazie ciao. She's a girl dressed in black from another world. Lives and breathes like a girl from another world. She don't know my name. She don't have the time of day. Celebrate, medicate till we numb the pain. In the sun, it's still dark like it always rains. She don't feel the same. She don't have the time of day. To what could have been. Her cloak and dagger mouth tastes like medicine. She won't last the night. Spun out in the neon lights. You would leave, but you need me to numb the pain. You're possessed and you slept through another day. You don't feel the same. And I don't have the strength to stay. Cause I'm in it too deep and I'm trying to keep up above in my head. over backwards to your mate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Take my pop. I can't stop excitement from your stash box. Thugged out, I respect the cash route. Lockdown, blast this sets while I mash out. Yeah, mash out, D-R-E. Backtrack, think back, E-V-E. Do you like that? Yeah, you got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still styling on, brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double off, can't strong. Beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, it was planned on. I had to give you more, it's only been a year. Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. E siamo giunti all'ultima mezz'ora di Fuji Comics, 12:01, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Sono andata nel frattempo anche ad assicurarmi che la redazione stesse ballando, perché dopo il pezzo di Gwen Stefani con Ive e Let Me Blow Your Mind, per forza bisognava ballare. Ci siamo ascoltati una bella carrellata di adolescenza con i Blink, Dark Side, e ovviamente a braccetto con i Blink, i Sum 41 con Into Deep. Siamo arrivati a appunto all'ultima mezz'ora, momento più chiacchiericcio, dove vi racconto un po' le novità, le nuove uscite, qualche evento, qualche curiosità, eccetera. Partiamo subito, visto che si è parlato di gravidanza, di cosa vuol dire essere donna e mamma insieme a Sara, e si è parlato anche di corsi per bambini, quelli che si terranno al VAG all'evento di sabato. E per rimanere in tema parleremo di Internazionale Kids. Infatti è uscito il nuovo numero, quello di ottobre, di Internazionale Kids, con una nuova importante novità. È ufficialmente diventato un mensile, quindi ogni mese andrà in edicola. Ovviamente si può fare anche l'abbonamento, e come il classico Internazionale, anche quello rivolto ai più piccoli, racconta l'attualità, quindi tutti i vari articoli di cronaca e attualità, e li traduce in italiano da articoli presi dalla stampa di tutto il mondo, veramente proveniente da ogni zona del mondo, per bambini e bambine. Tra l'altro, proprio dal 4 al 6 ottobre la redazione di Internazionale Kids sarà presente a Ferrara, quindi abbastanza vicino a noi, con incontri, laboratori, proiezioni, discussioni, eccetera. Ma poi andremo più nello specifico all'interno degli eventi che il nostro Alessandro ha preparato per noi. Nell'edizione di ottobre di Internazionale Kids sono presenti 4 fumetti per i più piccoli, da Aldo e Rosa di Susanna Mattiangeli e Maria Chiara di Giorgio. Un altro è A scuola in 18 secondi, che è veramente carinissimo, di un artista francese, Marine Bladin. Poi il terzo fumetto presente, Vi presento Joe di Good, e infine un fumetto che proviene da Regno Unito di Anorak. Anche se non siete piccoli, io vi invito a comprare l'Internazionale Kids, perché veramente spiega tanti argomenti di attualità in un modo più comprensibile, diciamo così. Ma passiamo ad altre interessantissime novità. Parto da quella di cui sono più felice, che aspettavo da più tempo in assoluto. Zero Calcare, Elo Germanio e Valerio Massandrea sono insieme riuniti per una nuova serie animata. Sono pochissimi i dettagli che si sanno al momento, a parte che appunto si tratta di una serie animata. Avrete visto, anche se seguite Zero Calcare nelle varie pagine social, la sua tendenza negli ultimi mesi a cercare di creare queste serie animate, e ci sarà proprio l'autore, quindi Zero Calcare, che parteciperà attivamente al progetto in veste di doppiatore. Con lui appunto Elio Germano, che interpreterà il ruolo di Secco, e Valerio Mastrandea, che interpreterà il ruolo dell'armadillo. Sembrerebbe che tutti e tre abbiano terminato le sessioni di doppiaggio dell'episodio pilota, come è stato confermato su un post su Facebook dalla Bao Publishing, che è appunto la casa editrice che opera che pubblica tutte le opere di Zero Calcare. E anche la Bao Publishing quindi sarebbe direttamente coinvolta nel progetto. Per il momento queste sono tutte le informazioni che sono riuscita a trovare, ovviamente vi terremo aggiornati perché sarà una nuova uscita di cui si parlerà molto. Ma veniamo ad altre nuove uscite. Uscite le prime 10 pagine del nuovo attesissimo fumetto di Charles Barnes, l'autore di Black Hole. Se ancora non vi siete andati a leggere Black Hole, uscite immediatamente, andate nella vostra libreria o fumetteria di fiducia e andate a comprarlo. Il nuovo fumetto si intitolerà Daedalus e sarà pubblicato in Francia il 10 ottobre, quindi tra poco, dalla casa editrice Cornelius. A quanto pare si tratta del primo volume di una serie incentrata su un giovane disegnatore di una ragazza che, secondo le parole diffuse dall'editore, leggo testualmente, costruisce la sua narrazione attorno al rapporto tra inconscio e la sua rappresentazione. Le prime 10 pagine, appunto, come vi dicevo, sono già uscite, unica cosa che sono in francese. Quindi se siete di madrelingua francese, fateci sapere, dateci una traduzione simultanea del testo. Lo potete trovare sul sito BD Jest o anche in realtà sul sito di Fumettologica, però sempre in francese sono. Ultima nuova uscita di cui vi volevo parlare, sempre sul sito Fumettologica, in anteprima sono uscite le prime pagine di Cristo, l'albo pubblicato dal collettivo di autoproduzioni Incubo alla Balena. Questo albo è stato scritto da Marco Taddei, che io già conoscevo per Anubi, Horus e Quattro Vecchi di Merda, anche questi tre sono fantastici. Stessa cosa di prima di Black Hole, se non li avete ancora letti uscite immediatamente, andate nella vostra fumetteria di fiducia e comprateli. E insomma, l'albo è scritto da Marco Taddei e da Simone Manfrini, già conosciuto per Brecce Bianche. Il volume sarà di 24 pagine, tutte in bianco e nero, ed è stato già presentato al Treviso Comic Book Festival che c'è stato questo fine settimana, appunto dalla casa editrice Incubo alla Balena, e sarà anche successivamente disponibile online. Cristo, che in realtà è scritto con la Q, quindi non so bene come leggerlo. Comunque questo fumetto è la conclusione della trilogia spirituale che hanno iniziato Marco Taddei e Simone Manfrini, e vedremo un po' di cosa si tratterà, e sono molto curiosa anche di questa nuova novità. Continuiamo con la musica, rimaniamo sempre in tema anni 90 e con Kills Trick Me. Showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to continuiamo con le chiacchiere riguardo questa volta un evento che si terrà a Roma, quindi un po' distante da noi, ma non potevo non citarlo. Si tratta del Romix 2019, siamo arrivati alla 26esima edizione e sarà dal 3 al 6 ottobre, quindi inizierà domani, giusto in tempo, alla Fiera di Roma. Se siete nei pressi di Roma, se siete romani e ci state ascoltando e avete la possibilità, andateci, perché veramente sono tantissimi gli ospiti e gli eventi che saranno all'interno del Romix. Io, insieme all'aiuto di Chiara, una delle ragazze della redazione culturale, ho selezionato alcuni eventi ed alcuni ospiti di cui vi volevo parlare. Inizierò da Altan, Francesco Tullio Altan, scusate, che ovviamente tutti conoscerete per colui che ha inventato e disegnato il personaggio della Pimpa, la cagnolina Pois, che penso sia entrata nei cuori di tutti i bambini e le bambine in Italia. La storia della Pimpa inizia nel 1987, quindi veramente un tot di anni fa, e ha un suo mensile che è stato pubblicato tra l'altro anche in Argentina e in Turchia, e la serie animata ancora oggi è in programmazione sui canali della Rai. Al Romix Altan presenterà in anteprima nazionale Uomini ma straordinari, edito da Coconino Press, che appunto inizia con questo primo volume e la pubblicazione integrale dei romanzi a fumetti di Altan. All'interno di questo volume, che con questo titolo fantastico, Uomini ma straordinari, racconterà ovviamente alla sua maniera imprese di appunto uomini eccezionali nel corso della storia, come Cristoforo Colombo, San Francesco d'Assisi, Giacomo Canova, eccetera eccetera. Altri artisti che saranno presenti: Antonucci, Stefano Antonucci, grafico, illustratore, fumettista, che ha collaborato con testate locali, testate nazionali come L'Unità, Terra, Mucchio Selvaggio, eccetera. Conosciuto anche per aver vinto il Cartoon Sea 2012 ed è stato selezionato tra i finalisti del concorso del Comité Canadien pour la Liberté della stampa di Ottawa. Quindi altro incontro da non perdere. E infine volevo dare anche un attimo di spazio a le etichette indipendenti. All'interno del Romix me ne ha colpita una particolarmente, che è la Bad Moon Rising Production, questa etichetta indipendente a cura di Lorenzo Laneve, Mattia Drugo Secci, Matilde Simoni e Mitia Bichon, spero di aver letto bene l'ultimo nome. Il loro magazine è ora arrivato al quinto numero ed è stato candidato al premio Bartoli, e oltre a questo hanno anche realizzato comunque dei volumi che sono andati in stampa, due per Becco Giallo Editore, che sono i volumi Rosa Grezzo e Amore e Sugna, e anche altri racconti di storie, una web serie tipo un web comicon che ha avuto tantissime visualizzazioni, più di 200.000, ed ha spopolato in rete. Questi erano un po' gli artisti presenti che vi volevo giusto nominare per incuriosirvi, e se siete nei pressi di Roma andare al Romix. Sempre continuando a parlare di Romix, vi volevo accennare tre degli eventi, ce ne sono veramente tantissimi, quindi è stato anche difficile, per fortuna Chiara mi ha aiutato, è stato anche difficile selezionare quelli più belli. Il primo di cui vi parlo è sabato 5, dalle 11 alle 13, l'evento si chiama Da Topolino a Diabolic, da Spider-Man a Capitan America, la brillante carriera dell'artista dedicata a una mostra monografica ad eccezione di eventi speciali. Si parla dello sceneggiatore Tito Faraci, che sarà protagonista appunto di un incontro speciale con il pubblico, assegnerà anche il Romix d'oro e percorrerà tutta la sua carriera dagli esordi degli anni 90 fino ad oggi. Si darà anche voce ad un discorso sul rapporto tra la sceneggiatura e il disegno, e ci saranno tantissimi ospiti oltre Tito Faraci che hanno collaborato con lui e che faranno parte di questo dibattito. (Susurra)

il cielo sopra Roma che non smette mai di vivere. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Tra l'altro, nell'ultimo concerto dei Colle del Fomento che ho avuto il piacere di sentire qua a Bologna, al Locomotive, lo spazio dietro il Locomotive, che ora non mi ricordo bene come si chiama, Arena Puccini forse, se non mi sbaglio, i Colle del Fomento erano sul palco insieme ai Bud Spencer Blues Explosion, che presentavano, erano appunto prima dei Colle del Fomento, e hanno fatto questo pezzo, Il cielo su Roma, insieme in acustica, ed è stato veramente veramente un bel momento, molto molto interessante come unione di generi. E siamo giunti all'ultima rubrica che compone Fuji Comics. Questa volta parlerà Alessandro, uno dei ragazzi della redazione culturale di Radio Città Fujiko. Ci parlerà di tutti gli eventi bolognesi e non solo, perché arriveremo fino a Ferrara con l'internazionale che presenta anche l'internazionale Kids, il festival, ecco. E arriveremo anche alla Feltrinelli, sempre di Bologna, quindi faremo un po' un giro di Bologna e periferie, ecco, e sentiamo gli eventi che il nostro Alessandro ha selezionato per noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Io sono Alessandro e questi sono tutti gli eventi della settimana di presentazione di fumetti o di graphic novel. Si comincia sabato 5 ottobre al VAG 61 di via Paolo Fabbri 110 con il Geographic Novel Day, Immaginare lo spazio, presentato da 42 La Risposta. Parteciperanno Paolo Bacilieri, Marta Baroni, Flavia Biondi, Claudio Calia, Vincenzo Filosa, Rita Petruccioli e Percy Bartolini con la sua mostra. L'evento prevede anche un laboratorio di fumetto per bambine e bambini a cura di Marta Baroni. Ancora sabato 5 ottobre, a partire dalle 15, questa volta a Ferrara, al Festival di Internazionale, un appuntamento per i più piccoli presso la biblioteca Casa Niccolini. Susanna Mattiangeli presenta Aldo e Rosa, un fumetto pubblicato a puntate su Internazionale Kids, che racconta le avventure di Rosa e del suo amico immaginario Aldo, alle prese con dei bizzarri professori. Domenica 6 ottobre alle ore 9, l'inaugurazione della sessione autunnale della Fiera del Libro in piazza 20 Settembre, a Bologna. Una buona occasione anche per tutti gli appassionati di fumetti e graphic novel. La stagione prenderà il via proprio il 6 ottobre e terminerà il 12 novembre, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19.30. Lunedì 7 ottobre, presso la Feltrinelli di Piazza Ravegnana, Roberto Recchioni, insieme ad Alessandro Pieravanti del gruppo pop rock Il Muro del Canto, presenta Roma sarà distrutta in un giorno. La sua nuova graphic novel è ambientata nella capitale, dove sul litorale di Ostia un gigantesco mostro emerge dal mare e avanza verso Roma, cominciando a devastarla. Si incroceranno i destini di alcuni personaggi molto distanti tra loro per età, provenienza e formazione, facendo emergere i modi differenti con cui i singoli individui affrontano l'apocalisse a livello personale. Questi erano gli appuntamenti di fumetti e graphic novel della settimana. Un saluto da Alessandro e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. E la seconda puntata di Fuji Comics termina così. Abbiamo fatto un sacco di chiacchiere, ascoltato un sacco di musica. Io vi ringrazio, ringrazio tantissimo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì, sempre dalle 10.30 alle 11 e alle 12.30, scusate. Nel frattempo vi lascio ad un po' di musica, vi lascio la lettura del GR, quindi con tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. E infine vi lascio al nostro Last Minute, il contenitore degli eventi culturali, musicali e cinematografici bolognesi. Grazie mille a tutti e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao!